YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Beh, sai che alle 15 dovremmo dire buongiorno, quindi buongiorno, buongiorno e bentornati a Radio Tube. Mi piace la domenica. Noi siamo abituati a dire buonasera perché andiamo in onda alle 18 del sabato e invece... Ma no, la domenica è bello, poi cosa siamo? Contro la D'Urso, contro Giletti, chi c'è? Noi ma contro le corazzate andiamo. Siccome siamo più belli, noi andiamo in onda alla radio. Ah giusto, certo, anche andiamo alla, in onda alla radio parlando anche di televisione, parlando praticamente del mostro sacro della televisione. Ah beh, questa settimana partiamo proprio perché noi parliamo sempre del imperdibile, imperdibilissimo, perdibile della settimana tra web, TV, tanto la sapete tutti a memoria, e soprattutto di quello che ha fatto parlare la rete. E in particolare questa settimana che ha fatto parlare della rete che stava guardando la TV. Sì, perché quando uno è un mostro sacro può permettersi di parlare con più libertà, scioltezza. Cioè, lui si è trasformato. Sì, soprattutto cioè, dopo una certa età. Lui, Pippo, la televisione, Pippo Baudo, a un certo punto ha detto, sapete che c'è? Io ormai Pippo Baudo sono... Ah beh certo, Pippo Baudo l'ho inventato io, anzi sono io. L'ho scoperto io. L'ho scoperto io. E quindi da lì in poi ha iniziato a parlare un po' più a lingua sciolta. Forse sì, anche sì, prima, la verità anche prima creava qualche polemica. Però, sicuramente, certo, però era... adesso parla di politica, di tutto. Sì, insomma, però, ogni tanto anche con qualche parolina. Abbiamo già dato. Però non parliamo di politica noi, parliamo di televisione, di quello che ha detto Baudo, che ricordiamo a breve compirà 78 anni, quindi giovanissimo. Insomma, ecco, li porta particolarmente bene alle invasioni barbariche sulla 7 con Daria Bignardi. Cosa è successo? È schizzato inevitabilmente in cima ai trending topic di Twitter. A tra parentesi ricordiamo anche i nostri account, che sono chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola e l'hashtag RadioTube, se volete segnalarci qualsiasi cosa di cui parlare durante le puntate della nostra trasmissione. Dicevamo, è schizzato in testa ai trending topic soprattutto per un'affermazione che ha fatto. Forte. Beh, abbastanza forte, perché sai cosa vorrebbe tornare a fare Pippo Baudo? Cosa domenica gli piacerebbe? Il Festival di Sanremo. Lui ne avrà fatti 15, 16, ma non lo so. Ma ci prendi gusto? Quindi ascoltiamo cosa ha detto Pippo Baudo a la nostra Daria Bignardi alle invasioni barbariche. Io me li ricordo tutti, sì, e li rimpiango tutti. Ti sei divertito? Li rimpiango tutti perché sono andati bene quasi tutti. Beh, diciamo pure che hai il record. Sì, ho il record. Gli ascolti, il primo, il secondo. Comunque, se mi richiamano, accetto. Non mi hanno offerto niente di importante. Io sono rimasto molto male, devo dire la verità, nell'occasione di questo... festeggiamento di 60 anni, io ne ho fatti 54, insomma avrei dovuto essere tra i presenti. C'è rimasto male Pippo, perché voleva essere invitato ai festeggiamenti per i 60 anni della RAI e non è stato invitato, e soprattutto adesso dice e può permettersi di dire alla sua età e al suo punto di carriera, ma certo che se mi chiamassero a Sanremo io ma lo farei. Sì, ma infatti la deve prendere così, lui non è stato invitato ai festeggiamenti, ma perché Pippo Baudo è ancora Pippo Baudo, non c'è bisogno che come dire, si... vada in una specie di museo, no? Ma no, ma infatti appunto lui è andato subito in cinema, in cima ai trending topic di Twitter. Tra l'altro in quei giorni lì erano in cima ai trending topic di Twitter lui, la Raffa, quindi qualcosa vorrà dire. Beh vabbè, ma certo, adesso che discutiamo Pippo Baudo, che sono i nostri punti di riferimento. Ma sì, e poi c'è un tempo per ogni cosa, e adesso è il tempo del Pippo Baudo più libero, che fa delle cose più spot, che poi per un po' non fa più delle cose ma poi torna, quindi... Ma c'è su Twitter? Eh no, Pippo dovremmo chiedergli, insomma, Pippo dovrebbe cominciare a usare, sai, qualche volta è arrivata la Raffa. Lo chiamiamo. Ah, dici che ci risponde? Ah, sì, Pippo, ci proviamo. Se mi chiamano io accetto. Dice. Se mi chiamano, allora proviamo a chiamare Pippo. Diciamo, per il resto, noi già ieri abbiamo parlato un po' dei video in cima alle classifiche, ecco, sì. Abbiamo parlato della grande Hillary Clinton, che ha fatto una cosa straordinaria, che ha schivato la scarpa. Sì. che le hanno lanciato la scarpa e lei ha detto: l'ho schivata perché la signora che me l'ha lanciata non ha fatto softball come ho fatto io da giovane. Sì, ma è in campagna elettorale, è già in campagna elettorale, bravissima, bravissima. Forse sì, campagna elettorale, appunto, lo ripetiamo, l'abbiamo vabbè, già detto in ieri. America, è in America, Massachusetts, non è che in America, ragazzi, è in America, non, ecco, non facciamo la par condicio anche in America. Non si candida alle europee. No. Ma abbiamo parlato di un altro personaggio, mi è piaciuto molto, intanto il contatore dei suoi accessi al suo video continua a salire. E siccome oggi è domenica? Ma certo, siccome è domenica noi onoriamo l'arte del reverendo Ray Kelly ascoltando un pezzettino della sua grande performance Old Castle in Irlanda. Vai! Il reverendo Ray Kelly, parroco di Old Castle in Irlanda, durante un matrimonio ha tirato fuori questa voce. Suor Cristina, attenta. Suor Cristina, il matrimonio di Marta Cagnola. No. Guarda, possono anche arrivare l'invasione aliena. Perché ma come ti spieghi questo fatto dei religiosi che vanno così forte con la musica in rete? C'è qualcosa nell'aria? Ormai diciamo effetto Papa Francesco, perché qua ormai bisogna comunicare, lo fanno bene. Beh, oddio, questo era un video amatoriale fatto durante il matrimonio, quindi non è stato tutt'altro, tutt'altro show. E adesso però sai cosa detto ieri che forse Suor Cristina c'ha tutti contro lì. Sai, ormai è un personaggio talmente importante che la gara è tutta da inventare. Ma lei come la prende questa cosa della sfida contro tutti? Ti dico solo che già si sa quale sarà il primo pezzo che canterà nella prossima fase. Che sarà? Girls Just Want to Have Fun. Ok, bene. Sono rimasto un po' di sasso, non ho la risposta pronta. C'è il traffico che mi salva. Ecco, perfetto. Abbiamo il traffico, così tu puoi riflettere su questa affermazione. Bene, bene, traffico. Radio Tube. Eccoci qui nella nostra seconda parte della trasmissione della domenica di RadioTube, perché da questa settimana abbiamo deciso, così in maniera scriteriata, folle e coraggiosa, basta con la replica di RadioTube la domenica. Basta con la domenica, replica. Giorno tutto nuovo. Un giorno nuovo, una puntata nuova, quindi dalle 15 alle 15.30, insomma più piccolina, non possiamo esagerare, dalle 15 alle 15.30 c'è una puntata nuova di RadioTube tutte le domeniche. Ci concentriamo anche un po' sulle stars. Sì. RadioTube Star è la star del momento. Da Sanremo non ci sono rivali, perché abbiamo parlato prima di un mostro sacro che era Pippo, e adesso invece del personaggio del momento e forse anche dell'immediato futuro e del futuro, che è Piff. È Piff. Devo dire, senza citare ovviamente l'azienda, che Piff è stato anche capace di rinverdire un fenomeno che andava molto negli anni passati, cioè la pubblicità, lo spot pubblicitario in televisione con una storia e con un personaggio che tra l'attore e il testimonial, come dire, provasse degli esperimenti di comunicazione. Lo sta facendo alla grande Piff con questo spot che va in onda in questo periodo. Ebbene sì, da testimonial a testimone. Che brava che sei nei collegamenti, non era per nulla preparata, perché io non so mai nulla di quello che si fa in trasmissione. Perché guarda, mi vengono così testimone, originali torna anche e spontanee. Quello. Torna il testimone, sì. Testimone 6. Che è praticamente il suo format, sono le interviste che lui fa con la telecamerina e, come dice lui, insomma, tutto è la sua personalità, il suo modo di vedere la realtà. Sì, lui va in giro, io non ho mai capito, ci deve essere tanta post-produzione, cioè tanto lavoro dopo. Nel durante sembra molto genuino. Secondo me lo con è. Con la telecamerina, mi ricordo uno fenomenale a Cortino, a Courmayeur, mi pare. Straordinario. Il mio preferito è stato però quello con Valeria Marini. Valeriona. Lui e Valeriona hanno fatto delle cose bellissime insieme e vorrei tornare ad ascoltarne un pezzettino. Vediamo. E guardiamo insieme Valeriona. No, non si riesce a far sgombrare la gente. Ci sono 20 guardie del corpo, così. Nella voga Valeria dà ordine anche a chi è estraneo al suo staff, tipo l'assistente dell'operatore di Massimo Cerri. Tu invece mi vai a chiamare Claudio, Rocco, Pablo, tutti qua. Cioè lei dava a tutti. E beh, dovrebbe... Il rapporto ma tra dove erano qui? Era una sfilata. Piff e Valeria Marini, straordinario, proprio un sodalizio. Una cosa molto particolare del testimone di Piff, c'è una vera interazione, ci sono anche degli hashtag, non solo come il nostro RadioTube, per interagire con il conduttore. Peccato che quando l'ho incontrato qualche giorno fa alla presentazione del testimone 6, Piff non si ricordasse quali erano gli hashtag, ma non importa, era distratto. Sì, insomma, beh, lui è fatto così. Il testimone 6, che vuol dire che 6 anni fa, quando è iniziato il testimone, su MTV, quasi non c'era neanche Facebook. All'inizio non c'era, o forse se c'era, no, secondo me proprio non c'era, o comunque irrilevante per l'attività di uno che lavora in televisione, non esisteva. C'erano le email, giustamente, si dialogava con quello. Adesso ormai facciamo questa cosa che abbiamo cominciato l'anno scorso, secondo me è bellissima, di poter video chattare, cioè la gente può fare una domanda e io posso rispondere in video prima, durante e dopo la puntata in onda. Cioè è una cosa meravigliosa, nel senso che vedi un programma in televisione e chiedi a chi l'ha fatto e mi fai domande, ma questa persona che hai intervistato com'era, e ti dico tutto quello che non riuscivo a dire. Non ho avuto il tempo di dire. Quindi l'hashtag il testimone è per il live tweeting durante, e chiedi a Piff invece per chiederti cose. Questa è una domanda che vorrei rispondere. No, in realtà sì, chiedi a Piff, perché poi l'hashtag chiedi a Piff è un modo diretto per poter appunto dirmi una cosa dritta e io ti rispondo in maniera dritta. Beh, allora, l'interazione di Piff mi pare cosa assodata. È stato bravo, ha risposto bene, anche se l'hashtag un po' l'ha fatto confondere al momento. Ma una cosa di cui noi parliamo spesso è di quanto i dips, sì, i conduttori, abbiano in realtà paura di Twitter. Cioè questa cosa la tiriamo fuori sempre, no? Che alla fine soprattutto ti dicono perché tira fuori il peggio delle persone. Sì, la rete rende cattivi. Ci fanno i commenti cattivi. Ma Piff, come la prende? Cosa ne pensa Piff? No, con disincanto. Chi fa questo lavoro è da questo punto di vista è estremamente fragile. Io non ho mai incontrato uno che fa questo lavoro e dice a me non me ne frega niente. Guardiamo sempre cosa ci dicono. Secondo me bisogna calibrare, nel senso che io sono abituato a ricevere messaggi quanto sei bello, quanto sei figo, e il tuo ego va a palla. Appena ce n'è uno che ti fa una critica, ci rimani malissimo. E bisogna tarare la cosa, bisogna capire quanto corrisponde alla realtà e pensare che comunque c'è sempre qualcuno che pensa male di te, mentre prima non lo sapevi, adesso grazie a Twitter lo sai. Ecco, nella vita c'è qualcuno che può pensare male di te e Twitter te lo sbatte in faccia e va così, che ti devi fare. L'alternativa è cancellare tutto, e forse si riesce a vivere ugualmente. Forse. Forse si riceve. Beh, succedeva prima per strada, no? Al VIP lo vedevi e gli esprimevi simpatia, oppure ogni tanto anche antipatia, i più maleducati addirittura in modo maleducato. Adesso può succedere su Twitter. Forse bisogna avere lo stesso atteggiamento, essere pazienti e insegnare un po' le cortesie. Sai che secondo me poi di persona però magari sei più portato a essere gentile, magari ti emozioni anche a vedere un personaggio, anche se non ti piace. No, è che di persona ci sono più controlli, cioè le regole le sai già. Invece su Twitter per ora non ci siamo ancora tutti, sai qual è la mia teoria, no? Per avere tutti gli anticorpi su Twitter dobbiamo andare tutti su Twitter, a quel punto ci comporteremo più o meno come nella realtà. Adesso effettivamente il fatto che sia di meno in diretto contatto tra VIP e non VIP, forse un po', diciamo, toglie l'inibizione, questo poi la a volte rete, è male. La però, rete ti consente anche l'anonimato, eh? E questa cosa sì, addirittura di mentire, però prima o poi su questo ci si farà una riflessione, magari si prenderanno anche metodi, già esistono, il bollino blu, per essere sicuro che quella persona sia proprio quella persona, che tra l'altro sta diventando anche uno status, perché non mi hanno ancora chiesto che io, esatto, c'è blu. Gente che prega che il giorno dopo venga chiamato per dire lei, ma lei è davvero Daniele Bellasio? E tu hai il bollino blu, spero, chiamatemi, vuol dire che sei diventato qualcuno. Io l'ho detto, non abbiamo un fake, se non hai un fake non sei nessuno. Ma Valeriona. Sì, ce l'ha parecchio. Ma Valeriona. Su Twitter non si sa. Senti cosa le ha chiesto in quella famosa puntata PIF. Un altro chiodo fisso di Valeria mi pare siano le foto, i filmini da mettere sui social networks. C'ho una foto. Ma tu hai un blog? Certo. Perché ma non riprendi? Scusa, pensavo che volessi essere ripresa troppo vicino. Questa poi te la mando. Anzi, la metto su Twitter. Perché ovviamente c'è anche Twitter. Allora, adesso non si può più scherzare perché è veramente tardi. Come risulti su Twitter? Valeria Marini, come risulto? Ah, che ne so, magari c'avevi un altro. No, no. Mazza. Oh, Valeria Marini, come risulto anch'io, sono Marta Cagnola, tu sei di Bellasio, come devi risultare? Sì, però, come ci ha detto Omar Pedrini a Verona, no? Gli avevano preso Pedriello e Pedrini Omar. Lì, sui ridere, nomi comunque che c'è carino, una filosofia. Salutiamolo, Omar, che è stato con noi. Ciao! E soprattutto, non abbiamo bevuto mai durante la puntata di RadioTube, abbiamo fatto tutta la puntata con l'acqua, però dopo, insomma, qualcosa di più. Però, degustazione e siamo arrivati a casa per bene. Dunque, io vorrei PIF, affrontare però, vorrei affrontare anche un argomento serio, perché PIF, insomma, l'abbiamo visto alle prese con Valeria Marini in maniera molto simpatica. L'abbiamo visto a Sanremo, lo vedremo nella prima puntata che va in onda il 15 alle 21 su MTV, alle prese con la moda. Sì. Lui vuole far tornare di moda il pile e ha provato alla settimana della moda. Ah, non è più di moda? Ah, quindi continua a metterlo senza. Potevi dirmelo però prima, che sono qua col pile. Sono 40 anche, anche ad aprile. Ma lui si è occupato anche di temi molto più seri, l'ha fatto anche al cinema con La mafia uccide solo d'estate, e anche questi hanno molto a che fare con la rete, con i social network. E lui ha fatto una puntata che andrà in onda in questa sesta stagione del Testimone, che si chiama Pizzo 3.0. Beh, insomma, molto avanti, e gli abbiamo chiesto come mai. Tra le varie puntate ce n'è una che si chiama Pizzo 3.0. Sì, siamo tecnologici. Siamo tecnologici, beh, soprattutto anche nelle cose importanti. Sì, perché avevo raccontato la storia di Dio Pizzo, questo comitato di ragazzi che è formato a Palermo e che è diventato un punto di riferimento per l'antiracket a Palermo. Ora, grazie a loro, grazie al loro stimolo, ci sono 850 commercianti che non pagano il pizzo, e ci sono pentiti che dicono, mafiosi dicono, quando vedevamo l'adesivo di Addio Pizzo noi andavamo via. Siccome vengono a una città dove le cose non cambiano perché la gente non vuole cambiare, e si giustifica perché dicono, ah, è una terra che dove non cambia niente, e la dimostrazione è cose possono cambiare. E io l'anno scorso ho fatto Addio Pizzo 2.0, dove sono andato da un ragazzo che col tempo è diventato un mio amico, di Caccamo, in provincia di Palermo, che è stato l'unico in tutto il paese a denunciare quello che gli aveva chiesto il pizzo. E lui si è sentito all'inizio da solo, e poi grazie ai ragazzi di Addio Pizzo ha capito che era dalla parte giusta, mentre prima gli era venuto qualche dubbio. E siccome lì la potenza come internet ci può aiutare a sconfiggere la mafia, io l'anno scorso ho invitato tutti i telespettatori del Testimone a mandare un messaggio a Giorgio di incoraggiamento, perché la paura dei commercianti che denunciano il pizzo è rimanere soli. Lui ha cambiato, cioè proprio sono tornato a vedere come andava la situazione, e lui è un uomo che mi dice, quando sono giù, quando sono triste, prendo le email che ho stampato, queste non so 2000-3000 email, ho perso il conto, e le leggo, e questa cosa mi dà forza, cioè mi fa capire che non sono da solo. Beh, insomma, te lo posso dire, ma che bella intervista. Beh, bravo lui, bravo. Sì, lui, no, eh. Però bravo, davvero bravo lui. Alla faccia lui. Della rete che i cattivi rende cattivi, vedi? No, anche perché poi tutti dicono, ma perché PIF è svagato, PIF. Vabbè, invece no, stile, no, lui è essere un ragazzo molto una forma molto anche preciso. Di difesa forse dalla timidezza. Che secondo me, allora, Piff dal 15 aprile alle 21 su MTV torna con il testimone 6. Poi ci sono gli hashtag, chiedi a Piff, l'hashtag il testimone. Questi sono quindi giusti. Questi sono giusti, io me li ricordo, cioè lui un po' meno, ma secondo me per la prossima settimana se li ricorda. Noi però abbiamo già concluso. Però guarda, a me la domenica ti piace. Anche a me piace la domenica, mi piace tanto. Quindi lo ripetiamo. Ogni maledetta domenica torniamo. Anche sabato alle 18, alle domenica alle 15 con una puntata nuova tutte le domeniche di RadioTube. Ringraziamo Pietro Lacorte in regia. Ciao Piff. Risalutiamo Piff e noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 18 con RadioTube. Ciao.